che tu mi dai. Portami via, parlami di me, di come sono, di cosa dovrei fare per restare vicino a te. Per me